guardo quando ti arrabbi. Tu che sorridi, i tuoi occhi mi dicono cose che non sai nemmeno. Tipo che ti amo, tipo che tremo quando ti vedo. Sai già che ho bisogno di te a fianco. Sai già che con te ho rivisto il bianco. Tieni la mano, stringila forte, parlami ancora. Ho vuoti di memoria, ma con te una parola vale più di mille messi assieme. Vale più di lasciarsi cadere. Vale più di ogni altra cosa che non passa. Vale più di quanto vale la mia faccia. La tua faccia è così bella che fa sentire bello anche me. Proprio me. Anche se rimango solo non mi ci sento se penso a te. Penso che se siamo diversi, sai che io passi si attraggono. Noi siamo il diavolo e l'angelo. Io le tue foglie, tu l'albero. Tu la città, io la periferia. Mi fai sentire nella terra mia. Perché con te sono a casa. Perché tu sei la mia casa. Casa mia. Sai già che ho bisogno di te a fianco. Sai già che con te ho rivisto il bianco. Tieni la mano, stringila forte, parlami ancora. Ho vuoti di memoria, ma con te una parola. Vale più di mille messi assieme.